uscii di casa per ubriacarsi. Troppe le cose cui non pensare. Uscii di casa, non è tornato, perso per sempre nel suo sorriso. Uscii di casa per bere gin, le mani chiuse, stringendo il vento. Non è la pioggia a rigargli il viso, ma pianto freddo liquido. E non mi scorderò, e non ti scorderai, che per almeno un giorno siamo stati noi. E vorrei crederci, vorrei convincermi, sei stata solo un sogno e non sei esistita mai, non sei esistita mai. Piedi ghiacciati, dita di marmo, ma dentro è freddo, o ancora più del naso. A casa sua non è tornato, che gli ricorda il suo sorriso. Steso in un parco, sotto ad un tiglio, gli occhi chiusi, che vedo lei. Non è la neve a bagnargli il viso, ma pianto freddo liquido. E non mi scorderò, e tu ti scorderai, che per almeno un giorno siamo stati noi. Non riesco a crederci, non so convincermi, che sei stata solo un sogno e non sei esistita mai, non sei esistita mai.